Capitolo 23. La vita di Sara fu di 127 anni. Tanti furono gli anni della sua vita. Sara morì a Kiriat Arba, che è Hebron, nel paese di Canaan, e Abramo venne a far lutto per Sara e a piangerla. Poi Abramo si alzò, si allontanò dalla salma e parlò ai figli di Chet dicendo: «Io sono straniero e di passaggio tra di voi. Datemi la proprietà di una tomba in mezzo a voi per seppellire la salma e toglierla dalla mia vista». I figli di Chet risposero ad Abramo: «Ascoltaci, Signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci la tua salma nella migliore delle nostre tombe. Nessuno di noi ti rifiuterà la sua tomba perché tu ve la seppellisca». Abramo si alzò, si inchinò davanti al popolo del paese, davanti ai figli di Chet, e parlò loro così: «Se piace a voi che io seppellisca la salma togliendola dalla mia vista, ascoltatemi e intercedete per me presso Efron, figlio di Zoar, perché mi ceda la grotta di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Me la dia per il suo prezzo intero, come tomba di mia proprietà nel vostro paese». Ora Efron stava seduto in mezzo ai figli di Chet, ed Efron l'ittita rispose ad Abramo in presenza dei figli di Chet, di tutti quelli che entravano per la porta della sua città: «No, mio signore, ascoltami. Io ti do il campo e ti do la grotta che vi si trova. Te ne faccio dono, in presenza dei figli del mio popolo. Seppellisci la salma». Allora Abramo si inchinò davanti al popolo del paese e, in presenza del popolo del paese, disse a Efron: «Ti prego, ascoltami. Ti darò il prezzo del campo. Accettalo da me e io seppellirò lì la salma». Efron rispose ad Abramo: «Signor mio, ascoltami. Un pezzo di terreno di 400 sigli d'argento, che cos'è tra me e te? Seppellisci dunque la salma». Abramo diede ascolto a Efron e gli pesò il prezzo che gli aveva detto in presenza dei figli di Chet: 400 sicli d'argento, di buona moneta corrente sul mercato. Così il campo di Efron, che era a Macpela di fronte a Mamre, il campo con la grotta che vi si trovava, tutti gli alberi che erano nel campo e in tutti i confini all'intorno, furono assicurati come proprietà ad Abramo in presenza dei figli di Chet e di tutti quelli che entravano per la porta della città di Efron. Subito dopo, Abramo seppellì sua moglie Sara nella grotta del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Hebron, nel paese di Canaan. Il campo e la grotta che vi si trova furono assicurati ad Abramo dai figli di Chet come sepolcro di sua proprietà.